questo, Cosa, scusami? No, basta che non mi sovrapponete. No, ma saremo bravi. Ok, partite la registrazione, signori bravi. Siamo in onda? Elia, per essere in onda dobbiamo sentire... Sì, allora... Tu si che la ca dicive, non te pozzo mai escurda. Tu si che la ca facive giuramente in quantità. È proprio brutto. È brutto questo facciamo. 3-0-1. Avanti. Cioè, non lo so, non ci stavo dove. È un pezzo della mamma Micheletta. Mo conosco nenna bella comma piense chi si tu saccio buono cassi quella che avvelena a gioventù. Stai e cunato casse crede tutto quello ca LL e dice. O fai e credere felice fino a quando piace a te. Stai e cunato casse crede tutto quello ca LL e dice. O fai e credere felice fino a quando piace a te. and gentlemen, this is Drew Pearson. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon, the arrival of a spaceship in Washington. The Army has taken every precaution to meet any emergency which may develop. Just a minute, ladies and gentlemen, I think something is happening. To extend your violence, this earth of yours will be reduced to a burned out cinder. He's a robot. Without you, what could he do? There's no limit to what he could do. He could destroy the earth. All vehicles, close in. Let's go. Non si pensa adeguatamente la frattura vera che porta il cinema nella storia, quella che siamo abituati a pensare come storia dell'umanità o del mondo. Il cinema è il primo momento in cui il mondo si rivede. Poi sappiamo che è finto, che è un trucco, che sono fotogrammi singoli, ma mentre la fotografia è un istante ghiacciato, col cinema rivediamo un cavallo, il mondo si rivede e questo di per sé è un avverarsi che non si pensa. È un piccolo sistema, meccanico, banale, semplice, corruttibile, però è sufficiente a produrre un rivedersi del mondo che di per sé immediatamente vi è fischiano, circolare. Alexa, tu ci sei, vero? Sei pronta? Non ne sono sicura. Ma se ti va di provare qualcosa di nuovo, ho una skill che si chiama Lupo Mangia Frutta e potrebbe interessarti. Vuoi provarla? Una cosa? Ok, ecco Lupo Mangia Frutta. No, non ti ho chiesto. Sono felice di aiutarti. Per usare Lupo Mangia Frutta, però, uno dei tuoi genitori deve attivare le skill per bambini dall'app Alexa. Non sono qui con me, stronza. Redazione Armando Andria, Maria Elena Bertino, Silvia Cafora, Dario Castelli, Rosalia Cicere, Andrea Cottola, Cioppe Caff, Gianvito Dio, Donatello Fumarona, Alessandro Gagliardo, Manlio Cavalli, Enrico Pizzi, Rosa Maglietta, Gabriele Monaco, Olimpia Pierucci, Marco Salvatico, Luca Serafino. Benvenuti a Su Radio Quarantella Napoli. Tutti i giorni in onda su radiovirus.org alle 11 e alle 16. Benvenuti a su Radio Carancla a Napule. Tutti i giorni in onda su radiovirus.org al 11 al 16. We are making a move. So what? Just a move. Maybe, maybe not. Here in Naples, many things can happen. Oggi siamo in compagnia della redazione Eccedance. Ciao Eccedance. Hi, we are Eccedance. We are making a movie. So what? Just a movie. Maybe, maybe not. Here in Naples. Many things can happen. Ma che state facendo? Chi siete? Pietro Pitre! Pietro Pitre! Totre botre a botre a titre! Totre batri batri! Totre boutre! Totre boutre totre! Butre vitre quatre foutre botre! Hectre, vectre, lectre, jectre! Hectre, vectre, pitre, jectre! Tetre dans tetre! Xetana donc cetre! Xetana donc cetana tetre! Pouk! Pouk! Empil surjouk san palex san palex! Oborax, pampre, yoga, grec, solung! Somble, egre, somble, xegre! Poc! Poc! Tegre, empil, jasuk, son parux! Grex, pipre, yung, grex, solung! Xelveni, bove, bove, bove, kriva, s'escriveni, bove, bove, bove, kriveni, bove, bove, bove, kriva, s'escriveni, bove, bove, bove, s'escriveni, pub! Pec! Pec! Empil, surjouk, son parux! Pampre, yung, grex, solung! Tetre, do! 1994. Sul set di Piccoli Orrori Enrico Ghezzi esclama: farò un film. Marco Milani chiosa nella stessa inquadratura: si può fare, ma si può anche non fare. 2019. Più di 500 cassette girate da Enrico negli ultimi 30 anni vengono acquisite, digitalizzate, riviste. Si costituisce un archivio. Ci lavora un manipolo di pittori, filosofi, sensitivi, scienziati del suono e della natura, giovani fiori, lecri dell'editing, incantatori di chiodi, qualche bandito in attesa di giudizio, non mancano né viziosi né informatici. Si incontrano e dicono: si può fare. I produttori che si erano interessati alla cosa si mettono le mani ai capelli. Enrico ride. perché aprire una redazione per completare il montaggio di un film? Chiedono. Perché non ci è mai interessato fare senza vivere, senza amare. Auguri, dicono. Arrivederci. Alexa, chi è Enrico Ghezzi? Enrico Ghezzi è un critico cinematografico, scrittore, autore televisivo, conduttore televisivo, regista ed occasionalmente attore italiano. E chi è la redazione Excedence? La garage di Rila Happy, di Remi la Clown, Clutilla, la Plapi. Oscillando tra l'unità fratta e fratta e l'innumerevole, abbiamo colto l'occasione per incrociare i destini e farci corpus faber all'assalto dell'archivio Ghezzi Pretesto Ecceso. Un assembramento addivenuto redazione, banda, orchestra, che è andata raccogliendo complici in modo irregolare con un peregrinare obliquo tra geografie insulari Paternò, Roma, Napoli, Domodossola, Perugia, Torino, Stresa per ora, convogliando su obiettivi puntuali senza orologi da polso. Alexa, muori. No, grazie. Help. Per chi ha voglia. Il 2019 e il 2018 di Rutli sono completi. Acquisiremo il 2017 a giorni e nel frattempo ci hanno già mandato 100 dirette nuove del mese di marzo 2020, naturalmente corona centriche. L'archivio Rutli è sul migliaio di ore. Un modo per iniziare a maneggiarlo potrebbe essere trovare un primo spazio di esplorazione e vedere che ne viene fuori. Con Enrico abbiamo sempre parlato di Hong Kong. Se si fa doppio clic nel folder Rutli e si cerca in Clippad la parola Kong, escono 8 pagine di clip. Se c'è chi si vuole perdere, sarebbe d'aiuto. Gli spettatori impietriscono quando passa il treno. Che fine ha fatto Odradek? Brief, very brief. We started by digitizing her. Brief, very brief. We, brief, brief, very brief. We started by digitizing hundreds of hours, detecting a huge quantity of images, words, situations, people, places. The egg archive is a rare thing, dispersed and dispersive. We talk about it in a text, the tract and a treatment. Ma mandare il pezzo sull'archivio di Ghezzi al Festival Internazionale dell'Archivio del Patrimonio può avere senso? Un paio d'ore fa, sulla soglia di questo spazio, mi è stato chiesto da alcune persone quando avrei parlato e di cosa. Ho detto che in realtà non pensavo se avrei parlato e quindi che sapevo di cosa avrei parlato. Aspetta, perché mi viene da ridere. Ma poi mi sono dimenticato. Benissimo. Che cazzo? Basta, robot. Un po' di umanità. Ma mi posso mettere anche qua? Si sente tantissimo. Sì, sì. Mi sto stonando le reti. Ah, se ti vado a dire le cuffie, se non ti piace sentirti. No, no. Okay. Così, guarda, qua. Un paio d'ore fa, sulla soglia di questo spazio, mi è stato chiesto da alcune persone quando avrei parlato e di cosa. Ho detto che in realtà non pensavo se avrei parlato e quindi che sapevo di cosa avrei parlato nel caso, ma poi mi sono dimenticato. Adesso, dopo tutta questa serata, mi trovo in una situazione che mi piace molto e che ho sentito una volta descrivere sinteticamente, in modo abbastanza folgorante, come ascoltare con la coda dell'occhio. Tornando qua, quello che ho trovato e che trovo molto fascinosa è questa cosa. Non direi capacità da parte di chi ha disorganizzato il festival di considerarci tutti, loro per primi, un pezzo di archivio. Il vento soffia sul microfono di Enrico che esclama: «Bello, questo è il vento!» Un pezzo d'archivio di cui abbiamo pochissime tessere per mettere insieme qualcosa di chiaro, di leggibile, ovvero il contrario dei database che uccidono in modi diversi o ci vendono fino alla morte in modi diversi. È qualcosa di più simile all'anarchivio o all'anarchivismo, al gioco se vogliamo, ma è un gioco spesso anche molto duro. Quando parlo di anarchivio, ho in mente il modo di rivedere le cose sul quale ci basiamo, in ogni momento senza volercene, potercene rendere conto. Un racconto che mi ha sempre molto colpito è quello di Charcot, un maestro fondamentale per Sigmund Freud e per molti altri, che a volte nelle sue lezioni di anatomia, praticamente fatte in diretta, confidava che il corpo-cervello che stava in quel momento analizzando con gli allievi era un corpo che lui aveva già visto molte volte e che però non gli aveva suscitato nulla. Non aveva saputo cosa pensare, mai. In quel momento era come se gli fosse arrivata un'idea. Non è proprio così impressionistico, ma ci è vicino. E così, più in generale, diceva che osservare la cosa, se la cosa non esiste, osservare la cosa, dei blocchi di cose immobili che non cambiano apparentemente, questa era la cosa. Rivedendo, mi viene da dire, come se fosse un film, una, due, tre, quattro, cinque, sei, infinite volte, una cosa che sembra sempre identica a se stessa, lì a un certo punto trova il salto infinitesimale e trova un senso perfino nel suo fare individuale, che cerca normalmente di mettere da parte, di, in qualche modo, nascondere a sua volta. Direi che se pensiamo al titolo della cosa che stiamo per vedere, non dico né il titolo né l'autore perché sono nel programma, è un titolo che trovo così stupendamente e ironicamente disperato che ci ridice di nuovo tutto sull'impossibilità di rendere davvero nostro un archivio, anche l'archivio di noi stessi, se non vedendo in qualche modo così lontano da smascherare, da ripulire, da sporcare, da mutarsi. E quindi mi sembra davvero di aver parlato troppo o troppo poco. Buona visione, il fotansé è tutto quello che volete. Ciao! Thank you. lasciato solo. Come? Mi hai lasciato solo. Adesso sentiamo che è io. Aspetta, per quale? Ehi Enrico, rieccoci. Ciao. Ciao. Mi hai lasciato solo. Come? Mi hai lasciato solo. No. Sentiamo che mi... No. Ha detto alle 4, sono le 4 e mezza. Buongiorno. Pronti? Armando, buongiorno. Buongiorno, come va? Bene. Diciamo bene. Che succede? No, va bene, c'è un po' di ansia da reclusione. Non sei uscito un cazzo in questi giorni? Ma la mattina ho deciso di fare la spesa, un po' perché, vabbè, per avere ragioni, sono stati con l'influenza, sì, certo. Anche Gaia dopo, sì. Comunque era anche... Sì, anche quindi comunque era bene evitare, diciamo, rischi per gli altri, però poi comunque nel caso adesso andare a fare sti giri, cioè anche ieri il mattino da fare la spesa, però cioè, dopo un po' la vedi il controllo, diciamo, sì. Quindi, ma poi devo anche dirti l'altro che delle volte in cui mi sono allungato un po' di più, tipo Piazza Dante, tipo, cioè, mi è venuta in realtà un'angoscia forse anche superiore, cioè, perché c'è un impatto assurdo vedere, vabbè, non so se si è fatto un giro appunto in zone tipo Piazza Dante, cioè, la, è scioccante, cioè, rispetto, capito, a quella vita che conosci, certo, tutta la vita, cioè, è una roba proprio, cioè, quasi, quasi meglio stare a casa. Il Kettler è proprio, te la dice tutta, la, la, insomma, la gravità. No, no, io no, perché nel senso al massimo sono uscito, ma mi ricordo 2 o 3 giorni fa, a, non so che cazzo, sono andato a fare un po' di spesa con Maglio, però tendenzialmente io tipo se non posso uscire non esco, quindi cioè, la, la, la vivo meno la questione, però per tutti ieri, che ne so, è tornato Maglio dal, dal supermercato, mi ha fatto una serie di battute divertentissime, perché al supermercato non l'hanno fatto entrare, perché era senza mascherina e senza guanti. Ma veramente? Sì, e l'ultima volta infatti che eravamo andati assieme a fare questa spesa, così ho detto facciamoci una passeggiata, eravamo entrati in questo supermercato ed eravamo gli unici senza mascherine e senza guanti, no? E sembravamo proprio due alieni noi, tra le altre cose, e quindi mi ricordo che Maglio tipo arrivò a un certo punto e ha detto ma il pane non lo prendiamo, dice ah sì, vari il pane, e si gira di scatto e urta con la spalla una persona, minchia, ma i brondoli che ci sono stati su quell'urto è una cosa incredibile. E poi quando eravamo in fila alla cassa anche c'era, siccome comparivamo come gli unici senza, c'erano i brondoli sotto la maschera delle persone ed era già un'indicazione. E ieri quando è tornato invece Maglio dalla spesa mi fa allora al supermercato mi hanno fatto entrare perché non c'ho la mascherina e i guanti, il tabaccaio non ha più sì, sì, il tabaccaio non ha più tabacco e il candelaio non ha più candele. E quindi io avevo 50 euro, ho comprato tutte cose, tutto quello che potevo comprare con 50 euro e mi ha dato un po' la misura, cioè ha fatto la spesa il massimo che poteva fare, mi ha dato un po' la misura di che cosa c'è fuori, anche perché poi contestualmente da Torino Dario mi chiamava, mi hanno fermato e poi Alexa, anche lui ha preso Dario un pochettino così, dobbiamo prepararci Alexa, a non so che cosa. Che cos'è il cacciatore di pianeti? Mi mandava video dalla Francia dove si massacravano per la Nutella nei supermercati. È cioè, affascinante scoprire che Cheops ha superato gli ultimi test ed è pronto all'azione. Il compito del satellite dell'ESA consiste nel misurare le dimensioni dei pianeti esterni al Sistema Solare. Anche se lo chiamano cacciatore di pianeti, a me non sembra abbia intenzioni bellicose. Alexa! 78 53 281 281, sto chiamando da Napoli per autodenunciarmi e avvisarvi che praticamente ho preso un treno per riscendere al mio domicilio a Paternò, in provincia di Catania. No, ho chiamato appunto prima per autodenunciarmi, infatti vi posso dare anche il numero del treno e sono costretto a tornare, quindi non restare qui a Napoli perché mia mamma e mio padre sono soli a casa. E tra l'altro mia mamma ha un enfisema polmonare, dunque volevo anche dirvi, non so, io sto cercando di seguire le regole, mi capisca, che andrò a fare un'autoquarantena, anche se non ho sintomi, sto bene, eccetera, eccetera, in un altro domicilio, quindi non a casa dei miei, però almeno comincio a tornare. Io ero fuori per lavoro, mi hanno cancellato il treno di sabato, perché sarei dovuto partire sabato, hanno cancellato il treno e ora ne hanno messo un altro e scenderò da Napoli a Catania domani. solo se metto le cuffie. Un attimo. Ehi. Dimmi. Niente. Che aspetta sei? Sto lavorando su un paio di cose. Che cosa? Ma io in questo momento avevo preso un discorso di Enrico, cioè sono da due giorni che mi sono messo a collezionare tutti i suoi autoriflessi, autoritratti, cercando di capire la logica, quando interviene, come ci arriva. Tra autoriflessi e autoritratti dici in video? Cioè, tipo sì, le volte che lui si scopre allo specchio, le volte in cui si ci mette, cosa succede prima, cosa succede dopo, dove lo fa, insomma... Sono diversi momenti in cui accade e niente, ho iniziato a metterli in fila per capire, o comunque per scoprire. E nel frattempo però ero anche molto sollecitato da questo racconto che lui ha fatto, questa sibillina, cioè citazione a Russell, alla villa di Palagonia, e poi le ricerche che ne sono venute fuori, che ha fatto Lia, scoprendo praticamente questo autore di cui non sapevo niente. Non so se Russell, ma ti ricerca Russell o Russell? No, Raymond Russell. Non so chi sia. Poi leggiti la chat e capisci di che stiamo parlando. Ok? Sì, sì, tutto là. Tu... Sì, ma il babbo doveva rispondere al telefono. Ciao, Nannella. Pronto. Ciao, Enrico. Oh, ciao. Come va? Come sei? Non mi avete fatto dire prima, volevo dirvi che io mi sono fatta la crema, quella che faceva la mia. Scusa, cos'è? Ti richiamo tra poco? Ti richiamare? No, se vuoi ti richiamo tra una decina di minuti, magari è una condizione. Vuoi chiamare un attimo, Aura, cosa? Cosa? Alessandro. È al telefono? Sì. Chiama su lui. Ok, fammi parlare con Alessandro allora un attimo. Come vanno le cose? Diciamo bene, ti volevo leggere una piccola cosa. Io poi se riesco a farlo al volo ti mando una cosa, se no dopo. Ok. Ciao. Ciao, ti chiamo dopo. Bye bye. Il montaggio è un'operazione meccanica, e il più è dato, secondo me, dall'assumere questa meccanicità del montaggio. Assumere la meccanicità che cosa vuol dire? Ci sono state molte teorie del montaggio nella storia del cinema, e soprattutto tra i sovietici. Prima Griffith in America, e poi, da una parte Zinten, e soprattutto dall'altra Vertov. Noi siamo vertoviani, l'uomo con la macchina da presa. Il montaggio è stacco. Il montaggio è passaggio da una sezione spaziale a un'altra. E il non visibile del montaggio è tutto il resto, è come se ogni alternarsi di piani, di campi, di inquadrature aprisse subito la possibilità di milioni di altri. Basta uno stacco, e questo è abbastanza spiazzante. Il momento tecnico, quando stai montando, è quello dell'abbandono. Abbandono che cosa vuol dire? Che ti devi lasciar sballottare dall'immagine, anche perché tu hai questo orribile, risibile potere di interromperla con tecniche elettroniche, di modificarla, di torcerla, puoi fare tutto. Puoi torturarle, le immagini. Hai questo potere di montarle e smontarle addirittura nella grana, nei singoli punti informativi. E questo è un piccolo gioco. Far finta di essere creatori. Mentre il massimo di vicinanza a un'istanza creatrice, a un'istanza di montaggio, agitandoti, facendoti agitare all'interno dell'immagine. Soprattutto in quel momento percepisci il fatto che il limite dell'immagine non è neanche l'inquadratura. E che non solo non esiste un solo senso dell'immagine. Ma che puoi passare assolutamente da un qualunque punto dell'immagine a un qualunque punto di un'altra. E la cosa può sempre funzionare. Deve essere più babu di il valzer, ancora una volta, solo le armonie, pianissimo. Si può fare, ma si può anche non fare. Gli spettatori impietriscono il passaggio del tempo. Se fossi un pelle rossa, è sempre pronto, è sempre vibrante sopra il cavallo in corsa. Se fossi un pelle rossa. È sempre pronto, sempre vibrante sopra il cavallo in corsa. Cavalcando sopra la terra che vibra. Fino a liberarmi degli speroni poiché non c'erano speroni. E fino a liberarmi delle redini poiché non c'erano redini. Vedessi appena la terra davanti a me, come un campo mietuto di fresco, già senza collo di cavallo o testa di cavallo. Sempre pronto, sempre vibrante sopra il cavallo in corsa, cavalcando sopra la terra che vibra. E vedessi appena la terra davanti a me come un campo mietuto di fresco, già senza collo di cavallo o testa di cavallo. C'erano le redini e vedessi appena la terra davanti a me come un campo mietuto di fresco, già senza collo di cavallo o testa di cavallo. Lo dico, per questa volta non chiuderei così a scendere, chiuderei in up. Sì, però l'audio in questo momento sta arrivando diretto al computer sul registratore, quindi quello che diciamo noi si può togliere senza essere... Cioè, almeno ho altri due pezzi musicali da mandare, ma dopo che c'è un po' di discorso. Io ho un discorso se volete. Ok. No, il discorso lui ce l'ha su questo computer. Sì. Vabbè. E se invece Greg vuole mandare l'audio, adesso da questo computer tu ce l'hai diretto. Nel budget del film ci sono 1000 euro per multe. Mi hanno sequestrato la Vespa, se avessi rubato 49 milioni mi sarebbe andata meglio e avremmo i soldi per il film. Quasi quasi fondo un partito. Guarda che ti è andata bene. Ricordati cosa invocava Zaia dal palco ieri? Carcere per i criminali e manganelli per le forze dell'ordine che avrai spaventato e fatto tremare con le tue scuse da colpevole. Freedom tomato olivero. Posso fregarti un due dita? quell'idea di prendere la chat. Per alcuni amici miei la strada ha fatto una strage. Cosa hanno fatto di male? Come sto nostro rapporto che ancora fa male. Mi viene da vomitare, perché mia mamma operata due volte deve stare male. Non è italiana, non paragonarmi a nessuno. Io sono Maradona, porto l'America in zona. E se vieni a casa mia porta a baciare la Madonna, non hanno importanza più le cose che fai, che fai. Yeah. Un giorno mi capirà, affaccio da finestra, sto cantando sta canzone, voglio ricevere se a Milan da sapere tutto di ora. Scendo a bacio, abbraccio, ma più forte, te voglio vestuta sposa, nuda pedo chi ne rosa. Più le cose che fai, che fai. Yeah. Un giorno mi capirà, affaccio da finestra, sto cantando sta canzone, voglio ricevere sia Milan da sapere tutto di ora. Scendo a bacio, abbraccio, ma più forte, te voglio vestuta sposa, nuda pedo chi ne rosa. Possibilità di non sentirsi inferiori ai tempi plurimi dei media. C'è un tempo per il calcio e uno del teatro, un tempo del Libano e uno dello spazio, inteso come shuttle, un tempo per odiare e uno per amare, un tempo per vivere e uno per morire. Oggi sono definitivamente lo stesso tempo senza stagione, che produce solo adesioni e volontà di potenza o anatemi e moralismi. Nessuna rivolta. Oggi è come se tutto, compreso il passato, il prima, fosse già dopo, post, in un dopo catastrofe dove proprio il tempo fosse perito e quindi rinato in forma debole, sopportabile, innocua. Già interrotto in realtà dalla catastrofe mai avvenuta e sempre allusa, quindi mai più interrompibile. Che poi la morte ancora esista e che quindi molti piccoli spettacoli si interrompano continuamente e che qualche spettatore pianga qui o là e che in fondo oggi più che mai funzioni lo sceno caricaturale sublime detto «si vive una volta sola» fa pensare a differenze ancora esistenti, producibili, giocabili tra il dominio soft del tempo e l'angoscia palinsestica del non poter vivere almeno 48 ore ogni 24 o un'ora in un minuto, c'è lo spazio-tempo incerto di ucronie vitali intense ed eterne, come un bacio, e come un bacio inesistenti e fugaci.